minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Hello! Mena, che ne sto scemo ancora da stare? Ah, sta finivo! Mena! Vado a uscire! Sopra la luna, mega ma parte! Ciao, mo! Che collo siamo, TRS chiama, Houston 3-2-1, noi partiamo in orbita senza paura, pure buona fortuna a piantare la bandiera di Maruggio sulla luna. Pronti per un decollo siamo, TRS chiama, Houston 3-2-1, noi partiamo in orbita senza paura, pure buona fortuna a piantare la bandiera di Maruggio sulla luna. Alla NASA non c'è nessuno, meglio saranno tutti sciuti, ci anchiamo, non ci pensiamo nessuno, rimani alla piedi con tu io alla smerza, taccati vivo, uno caditi, mo portiamo da l'uregge cattutini e contagiati, privati la bandiera mai piantata, sti terroni puro la luna n'ha colonizzata, pronti qua a Cuba, la muga, la festa gli azzeccato, tutti con le mani all'aria l'annoramo sta nottata. Si fame qua ballamo su sta bella melodia, unimmo lo vede rigolo fusca la compagnia, con tutti sti marziani non sai che ni capimo, mi basta sto regge ma ruggesi che facimo, e qua ti ludi che tu ripeto un'altra volta, sto ritmo senti e canto con lui a rota, la bandiera di Maruggio qua sta, chiantamo la luna con i terroni sta, colonizziamo. Pronti per un decollo siamo, TRS chiama, io son 3-2-1, noi partiamo in orbita senza paura, con una buona fortuna a piantare la bandiera di Maruggio sulla luna. Pronti per un decollo siamo, TRS chiama, io son 3-2-1, noi partiamo in orbita senza paura, con una buona fortuna a piantare la bandiera di Maruggio sulla luna. E buono sai, per le vuoi che vitti in modo stai, ma ruggisi sopra sta luna caete nostro ormai, per portare musica, musica da non c'è riata mai, ma sa che cubevo che sta gelo, lo picchieremo ne uno e troppo insieme già imbriagato, ma già per se non sta chi uno triste o agitato, chiedo aiuto, ma nessuno mi senti come sono sfortunato, fece uno cristiano e subito lo saluto, mi dici, sorry tu come from me, caparle in italiano va fa culo, ora te gamba venuti qua, portiamo l'udia le tue tradizioni che potremmo perderle, camminando fece una grande valle, che una di cristiano e logica sembrano palle, di una musica che possa elevarmi, senti bene di questa vita potrò saziarmi. Pronti per un decollo siamo, TRS chiama, Houston 3-2-1, noi partiamo in orbita senza paura, con una buona fortuna a piantare la bandiera di Maruggio sulla luna. Pronti per il decollo siamo, TRS chiama, Houston 3-2-1, noi partiamo in orbita senza paura, con una buona fortuna a piantare la bandiera di Maruggio sulla luna. E ci si l'aspettava tutta sta grande festa, ha già visto un marziano cade ne ha capito di rasta, Armstrong briago, barcollava tra la vista, e tipo lui che rossi gallicava senza sosta, lo sbirro di Nettuno sta incazzato nero, e zitto che baciamo che si senti di dammero, lupi io sotto razzo li faccio bere buono miero, spaccamo le case con l'oro l'universo intero, usciamo! Cagli è una bella situazione, tutti stiamo modu buoni, cavinendo di Maruggio la malassata e i problemi, ama stare tutta gente io alla forza gravità, quando sta ballamo mi porta di qua di da, ma cinci pezzo picchi picchi alla vita mia di Maruggio lo sai, che mi veni la malinconia, ma poi a puli che mini dono di la luna, terra rebelli e conquistata una bella fortuna, così per il decollo siamo, TRS chiama, io sto 3-2-1, noi partiamo in orbita senza paura, con una buona fortuna a piantare la bandiera di Maruggio sulla luna. Così per il decollo siamo, TRS chiama, io sto 3-2-1, noi partiamo in orbita senza paura, con una buona fortuna a piantare la bandiera di Maruggio sulla luna. Pronti per il decollo siamo, TRS chiama, io sto 3-2-1, noi partiamo in orbita senza paura, con una buona fortuna a piantare la bandiera di Maruggio sulla luna. Pronti per il decollo siamo, TRS chiama, io sto 3-2-1, noi partiamo in orbita senza paura, con una buona fortuna a piantare la bandiera di